Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti, da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Anche oggi, lunedì 29 novembre, Salva Danaio viaggia in tandem con il Sole 24 Ore del lunedì, che pubblica una nuova guida pratica di quelle che non possiamo perdere. Istruzioni per l'uso per la previdenza complementare, i passi giusti per la pensione di scorta. Anche oggi, come per tutte le guide pubblicate dallo scorso luglio, siamo alla numero 22, c'è la possibilità di collegarsi al sito del Sole 24 Ore all'indirizzo www.ilsole24ore.com/previdenza-complementare e rivolgere le vostre domande sull'argomento al pool di esperti messi a disposizione dal Sole. Le risposte domani sul quotidiano e a partire da mercoledì sul sito all'indirizzo che vi abbiamo appena dato. Tutto questo ci dà l'opportunità a noi di Salva Danaio di ritornare a parlare di questo tema. L'ultima volta lo abbiamo fatto proprio poco tempo fa alla luce di un'indagine che era stata realizzata da Asso Fondi Pensione, che elaborando dati della Covip, l'organismo di vigilanza sui fondi pensione appunto, sulle iscrizioni ai fondi pensione nei primi mesi di quest'anno, aveva registrato appunto un calo nel numero degli iscritti ai fondi negoziali, cioè ai fondi pensione di categoria. Noi avevamo analizzato le ragioni di questa tendenza in quella puntata, oggi magari riprenderemo quell'argomento, aggiungendoci però anche i temi nuovi affrontati dalla guida che esce oggi con il Sole. E nella prima pagina della guida ci sono, e questo sarà un punto che mi piacerà approfondire in maniera particolare, le indicazioni pratiche, che sono quelle che forse ai lavoratori mancano di più per capire bene quali passi si devono fare prima di scegliere il fondo pensione, aperto o chiuso, la polizza, destinati appunto ad integrare la pensione pubblica. Chi ci aiuterà stamattina, l'avevo già anticipato settimana scorsa, Marco Lo Conte, Plus 24, Il Sole 24 Ore. Marco, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che praticamente ha coordinato questa uscita insieme ai colleghi del Sole Chiara Bussi e Cristiano Dell'Oste, e poi in collegamento telefonico Giuseppe Romano, responsabile ufficio studi della società di consulenza indipendente Consultic. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ma è diventata una star televisiva con Ballarò, però ogni tanto ritorna anche così a... anche da noi, anche in radio, no? Le piace sempre Romano, sì, spero che non ci abbia abbandonato completamente. Assolutamente. 800 24 00 24, il numero verde per le domande vostre, per tutti gli ascoltatori, che naturalmente possono anche scriverci al 349 238 6666. Abbiamo già dato le indicazioni sull'andamento della seduta di borsa, che è di nuovo negativa e in misura anche abbastanza forte adesso, perché Milano perde l'1,10%. Milano in apertura è arrivata a guadagnare quasi un punto, quindi ha avuto una brusca marcia indietro. Parigi perde lo 0,8%, Francoforte lo 0,6%, Londra lo 0,38%. Stamani in apertura avevamo parlato di una reazione tiepida, moderata, ma comunque positiva al piano di salvataggio predisposto nel fine settimana dall'Eurogruppo appunto per l'Irlanda, questo maxi piano da 85 miliardi di euro, ma il mercato guarda già oltre e forse anche con questa reazione che si sta manifestando nelle ultime due ore cerca di capire se il Portogallo verrà allo scoperto con una richiesta di aiuto, visto che comunque la maxi iniziativa europea prende in considerazione anche l'eventuale di altre crisi e di tutta questa tensione ovviamente ne risente l'euro, che stamattina era già scivolato sotto la soglia di 1,32, poi aveva recuperato in maniera anche abbastanza decisa e forte e adesso era ingranato la marcia indietro, e sul dollaro quota 1,31,73. Rapidamente i migliori titoli di Piazza Affari: A2A più 0,78, Autogrill più 0,6, Mediolanum più 0,08%, e qua abbiamo già terminato la lista dei titoli positivi. Le banche anche stamattina rimbalzavano vigorosamente e adesso invece le ritroviamo tutte dall'altra parte della classifica. UBI meno 2,73%, Banco Popolare meno 2,16%, Intesa meno 2, ma tra i peggiori ci sono anche Prismian meno 1,90, Impregilo meno 1,83, Mediaset, sulla quale si abbatte anche forse l'inchiesta di Wikileaks, meno 1,62%, Fondiaria meno 1,56%, e poi con un calo dell'1,3%, Mediobanca, Unicredit, Unipol. Insomma, la tendenza di oggi è questa. Vedremo l'apertura delle contrattazioni a Wall Street, se aiuterà l'Europa. Nel fine settimana, come sapete, c'è stato il Black Friday, che ha dato una bella scossa ai consumi americani, e vedremo se questo oggi avrà il suo effetto anche sul mercato azionario, che è stato chiuso giovedì scorso e parzialmente aperto invece venerdì negli Stati Uniti. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e ritorniamo sui temi della previdenza complementare. La prospettiva di una pensione tranquilla ormai sembra non potersi più reggere su un unico pilastro. Nella maggior parte dei casi, a giudicare da stime e proiezioni, la differenza tra l'assegno dell'INPS e l'ultimo stipendio percepito potrebbe essere tale da non garantire il mantenimento di uno stile di vita in linea con il reddito. La scelta di uno strumento di appoggio, una previdenza cosiddetta integrativa o complementare, appare ormai indispensabile per avvicinare queste ipotetiche cifre a quelle dei pensionati di oggi. Attualmente sono ancora pochi gli italiani che si sono attivati pensando ad una previdenza complementare. Quello dei fondi pensione nel nostro paese è un sistema ancora piuttosto giovane, cui non mancano però i punti di forza. Innanzitutto una rendita proporzionale all'accantonamento del singolo, che non lo fa quindi dipendere da altre generazioni. In Italia poi i fondi hanno costi accessibili rispetto ad altri strumenti di risparmio gestito, senza dimenticare che, cosa non da poco, viste le vicende degli ultimi anni, non sono eccessivamente esposti a titoli rischiosi. Naturalmente sono possibili diverse linee di investimento, un'offerta ampia per una scelta importante e delicata, cosa che spesso può rendere opportuno il consiglio di un esperto. È possibile anche un adeguamento nel tempo in base alle esigenze di vita che possono presentarsi. Per costruire al meglio una pensione di scorta, il lavoratore deve comunque saper focalizzare al meglio, fin dall'inizio, i suoi bisogni previdenziali e costruire così, su buone fondamenta, quel secondo pilastro che gli permetta di dormire sonni tranquilli. 800 24 00 24, numero verde per le domande e le considerazioni degli ascoltatori, e ne vedo già molte. In Lizza ci fa piacere, perché poi a prescindere dalle scelte che i lavoratori negli ultimi 2-3 anni hanno fatto, in realtà c'è grande curiosità intorno a questo argomento, grande interesse. Marco, stavo riflettendo sul fatto che stamattina, anche sì, perché mi faceva notare una mia collega Barbara Bianchi di là che sta arrivando il ponte dell'8 dicembre, quindi naturalmente la benzina si sta già adeguando verso l'alto, anche se il petrolio sta andando in maniera diversa. Detto questo, qual è il carburante, la benzina che manca al sistema della previdenza complementare in Italia, visto che i tassi di adesione a questi strumenti risultano ancora, almeno secondo le aspettative di 3-4 anni fa, largamente insoddisfacenti? Beh, sicuramente il lavoro che manca, un'espansione economica che manca è un problema per la diffusione della previdenza complementare, ma conta fino a un certo punto, perché è vero che ci sono ampie fasce della popolazione italiana che stanno subendo una crisi economica in maniera rilevante. Vero è che poi non è semplice nemmeno prenotare per un weekend in montagna a Capodanno, per cui c'è il tutto esaurito già dappertutto e non è semplicissimo poi alla fine vedere come il risparmio previdenziale molto spesso si accompagna a, come dire, a un utilizzo, a dei consumi molto accentuati sotto altri aspetti. Al di là di questi confronti, quello che conta evidentemente è una vera diffusione della cultura previdenziale, o per essere meno alti, conta, come dire, veicolare il messaggio per cui la previdenza complementare è sempre più indispensabile. Non è una cosa di cui si può fare a meno, soprattutto se si ha meno di 50 anni sostanzialmente, perché almeno di non subire un grosso taglio nella propria entrata nel momento in cui si va in pensione. Quando si lavora il reddito sale proporzionalmente, progressivamente, ma tendenzialmente sale. Quando si va in pensione poi il reddito da pensione rimane sostanzialmente stabile, non ci sono forti adeguamenti, da lì molte polemiche. Passare subito al 65% dell'ultimo stipendio con una pensione vuol dire poi inchiodarsi a quei livelli, con piccole variazioni all'insù. E dunque è sempre più importante far arrivare questo messaggio. Allora, quello che manca, sì, è il lavoro per ampliare la diffusione, ma serve anche una consulenza adeguata che indichi ciascuno di noi quale sarà il suo tasso di copertura, di scopertura al momento in cui si va in pensione e che cosa fare di conseguenza per fare la scelta opportuna, giusta, corretta e senza pescare nel mucchio delle opzioni possibili. Certo, e questo peraltro è il motivo che noi avevamo anche abbondantemente analizzato nella puntata che a questo tema avevamo dedicato il 5 novembre, proprio ragionando sui dati di Assofondi Pensione dai quali sono partita. Lo stesso segretario generale di questa organizzazione, Flavio Casetti, ci diceva proprio questa: la consulenza che manca e che ha portato molte persone che avevano aderito ai fondi pensione chiusi, quindi a quelli di categoria, a trasferire la loro posizione in fondi aperti o piuttosto su formule di previdenziali private, perché lì invece le reti commerciali, gli agenti, i promotori finanziari fanno il loro lavoro e quindi in qualche maniera una forma di consulenza la garantiscano e quindi rassicurano forse un po' di più il lavoratore, Marco. Sì, cioè, poi la consulenza si mischia all'aspetto commerciale. Non sempre le due cose vanno di pari passo, nel senso che a volte prevale la leva commerciale rispetto alla leva consulenziale, per dire sostanzialmente che chi lavora in una rete ed è motivato economicamente a vendere un prodotto lo vende anche in assenza di consulenza. La cosa difficile è fare in modo che la consulenza ci sia anche in questi contesti, che sia seria. Però per i fondi pensione forse questo aspetto è mancato, perché io mi ricordo quando abbiamo fatto, Marco, te lo ricordi bene senz'altro anche tu, quelle centinaia direi di puntate dedicate proprio al famoso passaggio tra al momento in cui dovevamo fare la scelta, appunto il semestre del silenzio assenso, il passaggio appunto fondamentale della riforma del TFR. Mi ricordo che effettivamente soprattutto per i fondi chiusi tutta la consulenza era demandata per esempio al mondo sindacale, che non completamente preparato rispetto a questa rivoluzione. Ma ci torniamo fra un attimo, adesso ho un minuto e mezzo prima di chiudere, ma la parola per un attimo a Giuseppe Romano la vorrei dare, per capire un po', prima di andare ai passi giusti per la pensione di scorta, poi andremo alla concretezza, cosa ne pensa lei rispetto al ragionamento che abbiamo fatto fino a questo momento. Qual è il carburante che ancora manca ad una vera coscienza previdenziale complementare tra i lavoratori italiani? Ma diciamo che un punto importante sarà nel futuro il fatto che molti lavoratori vedranno i nuovi pensionati, che purtroppo non sono ancora quelli attuali, andare in pensione col 60%, 50% di copertura. Questo perché? Perché attualmente si parla di copertura, di previdenza integrativa, perché le pensioni si ridurranno, però nel frattempo oggi ci sono ancora persone che vanno con l'80-90% di copertura. E quindi chi vede comunque dei soggetti che va ancora con l'80-90% di copertura, probabilmente, anche se gli diranno che in futuro la pensione si ridurrà, ancora non vede effettivamente questa riduzione. Quindi questa esigenza è un'esigenza attualmente poco vista. Quindi un passaggio fondamentale, lei dice, sarà quando arriverà proprio quella generazione che per prima subirà questo taglio sostanziale. Assolutamente, assolutamente, perché oggi questo ancora non si percepisce, perché si pensa al futuro, però mi sembra che il futuro non arrivi non mai. Non dovrebbe arrivare mai. Perché ci sono questi soggetti. Infatti, c'è anche chi considera per la verità ingiusta questa riforma, perché dice, ma insomma, se io verso per tanti anni i miei contributi, e per quale motivo poi devo decidere di spalmare un po' su tutta la platea che mi sta intorno quello che io ho versato. Insomma, ci sono tanti temi che dovrebbero essere affrontati. Adesso cominceremo a snocciolarne uno ad uno. Intanto c'è anche pronto Enrico da Mantova, a cui chiedo solo un minutino di pazienza perché andiamo in pausa, un po' di pubblicità, meteo e poi arriviamo di nuovo noi. Eccoci di nuovo in diretta. Stamattina Salva Danaio è ritornato la nostra trasmissione su un tema che ci piace molto affrontare abbastanza di frequente, il tema della previdenza complementare, come si fa a scegliere il fondo pensione, chiuso, aperto, o la polizza previdenziale che fa al caso nostro, a seconda dell'età che abbiamo, del nostro nucleo familiare, delle entrate che abbiamo, soprattutto del lavoro che svolgiamo e della capacità anche di versare mensilmente una quota a questi prodotti, appunto, che non sono da considerare come prodotti di investimento, anche se effettivamente è un investimento sulla nostra vita futura. Allora, stamattina ne stiamo parlando perché esce la guida pratica del lunedì del Sole 24 Ore, la previdenza complementare, istruzioni per l'uso, e adesso cominceremo ad affrontare i passi giusti per realizzare, per concretizzare la pensione di scorta. Ce ne sono 10, vedo che sono ben descritti appunto sulla prima di questa guida, e adesso ne affronteremo ad uno con Marco Lo Conte e con Giuseppe Romano di Consultic, che ci stanno aiutando stamattina di nuovo ad affrontare questo argomento. Cominciamo però anche a sentire le domande degli ascoltatori e direi di iniziare con Enrico da Mantova, che già aspetta da un po'. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e ai suoi ospiti. La domanda mia è semplice, mi coinvolge indirettamente perché la pongo io, ma riguarda mia moglie. Mia moglie, dopo 10 anni di lavoro dipendente, nel 2000, a seguito di due gravidanze, lascia il lavoro. Sottolineo per forza di cose, non certamente per volontà. Oggi stiamo valutando la ripresa dei contributi volontari all'INPS o un'integrazione, i versamenti per una pensione integrativa. Di fatto non sappiamo se alla fine risulterà più conveniente integrare l'INPS volontariamente o effettivamente fare già direttamente una scelta diversa. Esatto. Qua. Grazie Enrico, una bellissima domanda, perché questa riflessione implica proprio magari di cominciare ad analizzare, Marco, i passi che tu suggerisci sul sole. Però sentiamo un po' il consulente che cosa dice, così, di primo acchito. Allora, la prima domanda da porre è se effettivamente questa persona ha iniziato a lavorare prima o dopo il 1996, perché quella soglia dà il passaggio dal metodo misto retributivo al metodo contributivo. La riforma Dini, sì. Prima di tutto, diciamo che se ha iniziato a lavorare dal 1996 in poi, per maturare la pensione ci vogliono solo 5 anni di lavoro. E poi eventualmente l'età che è 60 anni, ma poi sarà spostata sempre un po' più avanti, di mese in mese, magari senza drastiche riforme, perché abbiamo visto insomma quanto sia difficile sarà comunque però esatto. Romano, poi? Ok, questo è il primo punto, perché il primo problema è proprio questo, perché se ha iniziato a lavorare prima del 96, per maturare la pensione ci vogliono 20 anni, e quindi può essere anche valida la logica di fare delle contribuzioni volontarie per arrivare a 20 anni di lavoro. Altrimenti la valutazione se effettuare delle contribuzioni volontarie va verificata in un contesto diverso, perché la contribuzione volontaria rappresenta una forma di investimento proprio, che può essere alternativa a quello dei fondi pensione, perché prima di tutto i versamenti volontari sono integralmente deducibili comunque dal reddito, e se si è quindi nel metodo contributivo, così come si presume, sono un'alternativa ai fondi pensione, perché su questi matureerà una pensione attraverso un rendimento che è la media del PIL nominale degli ultimi 5 anni, quindi un rendimento obbligazionario. Alla fine ci sarà un montante che sarà trasformato in rendita con i coefficienti RG48, che sono le tavole pubbliche di conversione in rendita, e che sicuramente sono migliori rispetto alle tavole che esistono per la previdenza complementare. Tra l'altro, E poi è previsto tutto un insieme di vantaggi, come la reversibilità per i coniugi e altri vantaggi che invece la previdenza complementare fa pagare caro, diciamo così. Uno dei vantaggi comunque è anche il fatto che i coefficienti di conversione in rendita pubblici per le donne non sono svantaggiati, così invece come lo sono quelle della previdenza complementare. Quindi se si ha una certa somma di denaro, la pensione per l'integrazione pubblica in un certo senso è, ai fini soprattutto dei coefficienti, è migliorativa rispetto a quella di tipo integrativo, considerando che l'investimento pubblico che si fa nella previdenza pubblica dà un rendimento obbligazionario, che attualmente il tasso di rendimento che si sta dando è intorno al 3-4% storicamente. Questo è un po' il tutto. La previdenza complementare garantirebbe solo di più la possibilità di investire in linee di tipo azionarie, però c'è anche da dire una cosa: se l'azionario darà anche di qualche punto percentuale in più di rendimento, questo comunque ha nel lungo periodo ha pochissimo effetto sulla rendita, perché comunque la previdenza complementare, ripeto, ha dei coefficienti di conversione in rendita comunque peggiorativi rispetto a quello pubblico. Allora, un'altra cosa che volevo così affrontare con Marco Loconte è il tema del rapporto con il trattamento di fine rapporto, e quindi gettare un attimo uno sguardo fra quei lavoratori che hanno deciso di non far confluire il proprio TFR in nessuna forma di previdenza complementare, hanno deciso di mantenere il TFR in azienda. Tra l'altro, questo anche per così sgombrare il campo dall'equivoco che spesso ci piomba addosso quando realizziamo trasmissioni di questo tipo, e cioè che noi facciamo delle trasmissioni per sponsorizzare completamente i fondi pensione, quindi la previdenza complementare, e allora non ci interessa assolutamente un tipo di percorso di questo tipo. Il tema è focalizzare l'attenzione sul fatto che fra 30-40 anni non ci possiamo più aspettare appunto la pensione come viene erogata, come dire, nella misura attuale. Ce lo spiegava prima Giuseppe Romano: per un tasso di copertura che adesso è intorno all'80-90%, scordiamocelo fra 20-30-40 anni, perché praticamente la nostra pensione sarà tra il 50-60% dell'ultimo stipendio percepito, se andrà bene, sperando appunto che la situazione continui secondo il quadro attuale, previsionale attuale. Detto questo, Marco, per chi non ha scelto fondi complementari, uno strumento di previdenza complementare, ha deciso di mantenere il TFR in azienda, non ha fatto proprio una cattiva scelta, almeno in termini di rendimenti. Perché? Non è così? Ma è il tema di battuta adesso. Volevo aprire una fase faceta. No, il tema la della fase faceta. No, nel senso che la diatriba tra fondi pensione TFR, chi rende di più, chi rende di meno, è un dibattito infinito. I fondi pensione hanno delle linee garantite, molto spesso, almeno in un terzo dei casi, i fondi negoziali, che replicano pedissequamente il TFR, per cui lì la partita chiaramente non si pone. Quando si parla dei fondi pensione si fa la media tra migliaia di linee di gestione, mentre il TFR è uno solo, per cui è una media che non sta, sì, è una comparazione, non equilibrata, insomma. Quel che è certo è che il TFR si rivaluta per una quota pari all'1,5% più il 75% dell'inflazione. Quindi intorno al 2-3% quando l'inflazione è alta. Insomma, non sono rendimenti straordinari, ma sono poco volatili. Alcune linee dei fondi pensioni, per esempio quelle maggiormente azionarie, sono molto più volatili. Quelle conservative, garantite, prudenti, sono molto meno volatili, così come il TFR. Ciò detto, se uno guarda il periodo di rendimento dal 2003 al 2009, per esempio, la sfida tra fondi pensione e TFR può vedere vincitore uno dei due contendenti, facendo la capitalizzazione delle percentuali. In realtà, se uno volesse andare a vedere i soldi veri, cioè l'analisi money weighted, basata su quello che hanno veramente in tasca i lavoratori, ebbene lì la storia, proprio la partita non c'è, perché più volte abbiamo provato, e anche in questa guida, a fare il confronto tra gemelli, ossia prendiamo il lavoratore che nel 2007 avesse aderito al fondo pensione e lo stesso lavoratore che non avesse aderito al fondo pensione, quanto avrebbe oggi in portafoglio? Ebbene, prendendo alcuni casi reali, alcuni casi concreti di Cometa, di Fondo Energia e di Fonkim, vediamo che il totale del controvalore nelle tasche dei lavoratori che hanno aderito ai fondi pensione è comunque superiore a coloro i quali non hanno aderito ai fondi pensione mantenendo il TFR in azienda. Perché? La differenza, oltre ai rendimenti che nel tempo sono, nel lungo termine, questo è l'assunto sempre da verificare, nel lungo termine sono superiori, la fa il contributo volontario e il contributo datoriale, ossia versando qualcosa in più oltre al TFR è possibile beneficiare di una rendita sostanzialmente, di un rendimento sostanzialmente superiore. Questo analizzando, lo ripeto, i soldi veri, cioè il conto previdenziale dei singoli lavoratori. Poi ognuno può, può assumere qualsiasi punto di vista. Vero è che sta crescendo il numero di fondi pensione che vogliono replicare il TFR, proprio per dare parità di trattamento, di rendimento, e quindi di sterilizzare un po' questa contesa che devo dire che appassiona. No, ma sarà interessante poi verificare effettivamente il confronto, perché allora per quale motivo uno dovrebbe scegliere un fondo pensione in luogo del TFR se il fondo pensione ambisce a replicarlo? Perché il fondo pensione non solo dà una rendita alla fine, ma dà anche un beneficio fiscale e dà anche un contributo datoriale. Benissimo, la risposta l'abbiamo già data con largo anticipo. Sentiamo Fabio da Forlì e poi andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio. Fabio. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, grazie dell'opportunità. Io sono un dipendente del settore chimico farmaceutico, quindi in teoria un giorno dovrò avere la pensione. Nel frattempo, speriamo anche nella pratica, Fabio, insomma, adesso magari non sarà tanto alta, non sarà tanto grande, speriamo. Speriamo. Ecco, nel frattempo io dal 2001 sono iscritto al Fonkim e l'ho portato recentemente al 4%, e nel frattempo ho fatto anche una pensione complementare, un'ulteriore pensione complementare. Volevo sapere se può essere una scelta adeguata a quello che ho fatto io, e ho chiesto da pochissimo il riscatto degli anni di laurea. Grazie. Ah, benissimo, insomma, Fabio, vedo che ha aggredito in maniera molto forte, insomma, la questione del suo futuro previdenziale. Mi sembra un bel caso il suo da affrontare in maniera abbastanza dettagliata. Allora adesso andiamo subito a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, così non perdiamo tempo. A tra poco. Oh, noi gliela facciamo a fare questi passi per costruire la pensione di scorta. Adesso rispondiamo a Fabio da Forlì e poi facciamo tutti i nostri passettini. Giuseppe Romano. Allora, Fabio, sicuramente encomiabile lo sforzo per prendersi cura del suo futuro. Ci ha già pensato, a giudicare dalla voce, con largo anticipo, perché l'ascoltatore è piuttosto giovane. Ma mi chiedo, sicuramente bene il passo di riscatto degli anni di laurea, di università, quindi mi chiedo se però, avendo già aderito al fondo di categoria Fonkim e avendo costruito contestualmente anche sotto sottoscritto un altro strumento di previdenza complementare, adesso non ce ne ha indicate le caratteristiche, però lui ha fatto un doppione inutile, quindi sopporta un doppione di costi, che è comunque, insomma, ha una posizione teoricamente, secondo lei, da ottimizzare in qualche maniera, da consolidare, che ne pensa? Allora, sicuramente ha fatto bene a sottoscrivere i fondi, il fondo di categoria, sperando che prenda comunque anche il contributo datoriale. Così questo può essere utile anche per gli altri. Chi ha un fondo di categoria può comunque fare altri fondi pensioni in modo parallelo. Sì, sì, che si possa fare, questo l'abbiamo capito, però il tema è la convenienza. Diversificare troppo non ha tanto senso se comunque si è soddisfatti del proprio fondo di categoria, perché è meglio concentrare tutto in uno. Però su questo vorrei dire una cosa. Diciamo che è un po' un pregio per certi aspetti, ma un difetto della previdenza complementare, che è quella di attualmente, secondo le leggi attuali, chi ha un montante orientativamente, perché si fanno tutti insieme di calcoli, sotto i 70.000 euro, a scadenza potrà, quindi quando andrà in pensione, potrà riscattare tutto sotto forma di capitale. Diciamo che questa cosa non aiuta tanto la previdenza integrativa, per un semplice motivo, che io potrei comunque anche superare quell'ammontare, frazionare su vari fondi pensione e comunque prendere tutto a questo punto sotto forma di capitale. E questo comunque è poco educativo, perché comunque se noi vogliamo far sì che quei soldi devono essere utilizzati a fini integrativi effettivamente, e considerando oggi che i versamenti medi sono poco superiori ai 1.000 euro e gli anni medi di permanenza sono intorno ai 20 anni, sarà molto difficile che tantissimi soggetti abbiano sopra quella cifra. Quindi io penso che comunque, o con la diversificazione sui vari fondi pensione, o comunque, visto gli esigui ammontari che vengono messi in previdenza complementare, saranno ben pochissimi, se addirittura percentuali ridottissimi, di coloro che effettivamente prenderanno una rendita a scadenza. E questo, diciamo, è qualcosa che bisognerebbe comunque valutare chi fa soprattutto la parte delle leggi, perché si sono stati resi i fondi così, con la possibilità di prendere le anticipazioni, la possibilità di fare tante altre cose, però allo stesso modo si è un po' svilita questa possibilità di poter essere quasi obbligati a versare all'interno dei fondi pensioni senza potersi riprendere questi soldi se non a scadenza. E infatti. Sì. Da un lato si è fatta un'attrazione verso i fondi pensione, però dall'altro lato quasi sicuramente succederà che i fondi pensione difficilmente daranno delle rendite. Bene, e con questa notizia adesso abbiamo definitivamente fatto tramontare tutte le speranze per chi... Il punto è la normativa è stata messa in campo per agevolare le adesioni e quindi agevolare anche le adesioni poco consapevoli. Ora che comunque non sono state agevolate le adesioni poco consapevoli, ma soprattutto la gran parte della gente non ha aderito, è vero che sarebbe opportuno spingere verso la rendita, perché l'INPS non è che ti dà l'opportunità di riscattare quanto gli hai versato, l'obbligatorietà è lì, è legge, non la puoi toccare. Qui invece nel secondo pilastro è tutto opinabile dal punto di vista dell'adesione, nel senso che non è obbligatorio aderire, non è obbligatorio riportare la rendita, entri, ti fanno entrare, già che ci sei dentro ci stai un po', però effettivamente l'obiettivo principale della pensione che è la rendita, stabilità, e certo devi stare un po' stabile, e dare la stabilità ai redditi, allo stile di vita dei lavoratori, e questo viene un po' a mancare. È chiaro che adesso c'è chi paventa anche interventi legislativi che andranno a irregimentare in qualche modo la via verso la rendita e non verso il riscatto. È chiaro che è stata una riforma, quella del 2005, timida sotto molti aspetti, bisognava far entrare le polizze, però i fondi, siccome si sottraeva in qualche maniera il TFR, si è cercato anche di farlo, di promuoverlo come lo strumento più simile anche nel funzionamento in futuro al TFR, nel momento che quello lo riscatti. Alla fine si è fatta la mezza misura, non si è completato nessuno. Allora, mamma mia, 4 minuti di tempo per affrontare tante cose. Allora, prima cosa, tutti quelli che ci stanno scrivendo gli SMS, io girerò questi sms a Marco Lo Conte, yes, e vi darà le risposte sul sito del Sole 24 Ore, per cui se ci avete scritto e oggi non ascoltate le risposte perché non riusciamo a leggere tutto, andate da mercoledì sul sito www.ilsole24ore.com/previdenza complementare e troverete le risposte alle vostre osservazioni. Seconda cosa, all'ascoltatore che ci scrive: non parlate mai delle pensioni normali, non ne parla mai nessuno. Gianni da Genova, abbiamo fatto migliaia di trasmissioni, le però anticipo già che lunedì 6 dicembre comincia Salvadanaio un percorso sui temi della previdenza pubblica con la collaborazione dell'INPS, che andrà avanti per 3 mesi, quindi fino alla fine di febbraio, anzi fino agli inizi di marzo, e cominceremo questo ciclo di trasmissioni lunedì 6 dicembre con il presidente dell'INPS Mastrapasqua. Terza cosa, andiamo a Giacomo da Milano. Giacomo, buongiorno. Può abbassare la radio, per carità. Ascolta, io avevo 20 anni di contributo, cioè col Poskim, cioè con l'ammonte di soldi. Poi ho cambiato il lavoro, sono, sì, andato a commercio. Quando c'è stato l'obbligo o meno di fare, in 4 abbiamo aderito al fondo pensione del commercio, che è Fonte, ecco, se non mi ricordo male, Marco. Poi dopo che cosa è successo? Che il datore di lavoro ha ricattato a tutti dicendo: no, il TFR e questo deve rimanere in azienda, per tutta una serie di è successo per tante aziende, insomma, Giacomo, che non hanno certo aiutato questa scelta in molti lavoratori credevano. Io adesso mi trovo 22.000 euro versata a Poskim, cioè al fondo pensione dei chimici, e adesso è fermo lì e io non so più come fare, di andare avanti, se devo ritirare i soldi, certo, perché lei ha cambiato completamente settore, per cui effettivamente quella posizione là è congelata. Giacomo, aspetti lì 2 minuti di tempo, vediamo se riusciamo a darle una mano. Giuseppe Romano, intanto, passando da un settore ad un altro, avrebbe potuto trasferire teoricamente, poi il fatto che l'azienda non gliel'abbia fatto fare è un altro problema che affronteremo, tutta la sua posizione maturata in Fonkim, in Fonte, l'altro fondo pensione della categoria del commercio? Allora, molto semplice, può fare 3 cose: o lasciare lì la posizione fino all'età pensionabile, o riscattare il 100%, quindi portarlo a casa. Allora, l'unica cosa è che a questo punto avrà una tassazione un po' meno agevolata, oppure effettuare il trasferimento all'altro fondo di destinazione, che è Fonte, quindi a lui la scelta. Quindi può riscattare perché lui dice sono lì congelati, può sicuramente riscattare questa posizione. Allora, le dico una cosa su questo. Allora, la 25205 non prevede questo tipo di ipotesi di riscatto. Questo è l'unico tipo di ipotesi di riscatto di tipo statutario dei fondi negoziali. Tutti i fondi negoziali, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, come nel suo caso, perché lei non fa più quel tipo di lavoro, allora può riscattare il 100%. Con la nuova normativa, sul maturato della nuova normativa, la tassazione sarà del 23% e non ci sarà la tassazione prevista nuova, quella che va dal 9 al 15%. Marco, io ho 40 secondi di tempo, almeno leggiamoli queste 10 mosse per non sbagliare. Mosse di buon senso alla fine, giusto per, cioè, è quello che dovrebbe fare poi un consulente sostanzialmente, che ci aiuta nel momento della scelta. Si tratta di capire su quanti contributi facciamo conto sul primo pilastro, quindi recuperare, controllare gli statini e quant'altro. Avere una stima della prima pensione con i motori di calcolo, se gli enti previdenziali non ci dicono qualcosa di più preciso. C'è anche quello sul Sole 24 Ore. Esatto, calcolare tutte le variabili che possono incidere, aspettative, periodi in cui non si lavora, per esempio. Calcolare bene quanto versare in termini di versamenti a seconda degli aspetti fiscali, ma anche e soprattutto se a seconda di quanto è la nostra necessità, sfruttare bene per esempio le agevolazioni fiscali, sapere se dobbiamo versare tutto il TFR o soltanto una parte, identificare il portafoglio più consono, più coerente con le nostre esigenze e magari soprattutto adottandolo. Concludo, Marco, insomma, non rinviamo l'esame di questa situazione. Poi la scelta magari è un'altra cosa, però quantomeno cominciamo a metterci la testa. Di nuovo, questo ve lo ribadiamo, non siamo a favore di nessuno strumento piuttosto che di un altro. Grazie a Marco Lo Conte, Giuseppe Romano. Salvadanaio torna domani, buona giornata.